Bologna 90 è un progetto che nasce all'incirca un anno fa, diciamo l'idea di raccontare gli anni 90 a Bologna, che sono un po' degli anni leggendari e emblematici, di cui una persona come me, che diciamo è arrivata qui nel 2007, che non ha quindi vissuto direttamente quegli anni, però ne ha sempre sentito parlare, diciamo che in me c'è sempre stata un po' questa curiosità di approfondire le esperienze di cui ho sempre comunque sentito parlare, quindi dalle cose diciamo più politiche, quindi l'esperienza non so della Pantera, da cui poi sono nate tutta un'altra serie di esperienze legate agli spazi sociali, quindi l'isola nel cantiere, tutta la sperimentazione artistica, culturale, musicale, e poi negli anni, diciamo anche nella seconda metà degli anni 90, tutta un'altra serie di spazi e di esperienze politiche e culturali come il Link o il Livello 57, il TPO in Via Irnerio, cercare di raccontarli da un punto di vista legato a quello che poi è diventata la città oggi, quindi non solo meramente un racconto documentale di quegli anni lì, ma anche cercare di stabilire un ponte col presente per capire come è cambiata questa città poi negli anni. Tornando a quel periodo, un fermento che poi si è concluso con anche la questione globale del movimento No Global, di cui Bologna comunque era un luogo molto attivo. Sì, esatto, diciamo che la storia che cercheremo di raccontare prende le mosse proprio da tutto quel contesto, diciamo, cittadino, nazionale, ma anche internazionale, che erano gli anni Ottanta, quindi un periodo in cui c'era stato un reflusso dal punto di vista sia delle lotte politiche, ma non solo, e va a finire proprio attorno all'anno 2000. Sono gli anni quindi di Seattle e poi di Genova, che nell'idea insomma che ho io e le persone che stanno lavorando attorno a questo progetto, resterà un po' lì come il punto di arrivo di tutta questa storia, no? Però resterà come un elemento esterno che c'è, si sente, perché sullo sfondo, diciamo. Esatto, sì. Quindi ci fermeremo un po' prima. Quella magari è un'altra storia che si potrà raccontare in un altro progetto, in un altro documentario, ma è una storia anche quella che merita uno spazio abbastanza grosso, quindi la teniamo per un prossimo progetto magari. Bologna 90 ha anche dei profili sui social in cui vedevo che richiedete anche materiali. Sì, questa è una cosa molto importante, perché io in realtà è già da gennaio che sto lavorando sia sulla ricerca di materiali già digitalizzati, e quindi comunque ho avuto la possibilità di consultare degli archivi privati, ma non solo, e poi ho iniziato già, diciamo, a ricevere degli archivi privati di cassette analogiche o comunque di mini DV da digitalizzare, quindi è un processo che già sto portando avanti da qualche mese, però ovviamente stiamo cercando di arricchire sia da un punto di vista video ma anche magari fotografico, quindi per chiunque avesse del materiale e volesse condividerlo, metterò a disposizione del progetto. Per noi è una cosa molto molto importante, appunto sarà veramente parte integrante del documentario, assieme poi ovviamente a delle interviste, dei momenti di confronto, però il materiale d'archivio, insomma, nel raccontare una storia del genere ovviamente ha un'importanza molto grande. Giovedì a Granata presentate il progetto e lanciate anche una campagna di raccolta fondi, un crowdfunding. Sì, esatto, perché comunque diciamo che il tentativo che faremo assieme a una produzione che è Combo nella persona di Miguel Gatti, e che ringrazio tra l'altro perché diciamo ha creduto in questo progetto insieme ad Alex Scorza, è quello di comunque di cercare di autofinanziare un progetto del genere attraverso questo crowdfunding, che partirà il 12 su Produzioni dal Basso, e poi successivamente con l'idea comunque di accedere a dei bandi pubblici. Il crowdfunding stiamo lavorando già da un po' di mesi, abbiamo avuto la fortuna di avere l'artwork di Dimo, che è uno dei personaggi emblematici degli anni 90, quindi sarà su Produzioni dal Basso, ovviamente attraverso i nostri canali social cercheremo di spiegare man mano il motivo per cui chiediamo insomma una partecipazione, sia in termini diciamo puramente economici ma anche di sostegno, cioè per noi il crowdfunding sì è un momento in cui c'è una raccolta fondi, ma è anche un momento in cui ci siamo comunque posti l'interrogativo di capire quanto questo progetto effettivamente è sentito, quindi cioè sia raccolta fondi ma anche capire quanto seguito può avere un progetto del genere. Io invito le ascoltatrici e gli ascoltatori invece a venire giovedì 12 dicembre a Granata in via San Rocco 16, a che ora? Dalle 20 saremo lì, ci sarò io, ci sarà il producer Miguel Gatti e parleremo magari più nei dettagli del progetto, e saremo lì anche per rispondere insomma a domande e curiosità.